Il problema non è quello di ricostruire un'economia che abbia soltanto la dimensione locale, ma di ricomporre a livello locale quello che i processi di globalizzazione neoliberista e la crisi di questo modello che viviamo negli ultimi anni hanno scomposto, frammentato, emarginato. A livello locale l'elemento importante è che c'è una ricomposizione tra la struttura sociale, le persone che ci vivono, le comunità che si organizzano, le relazioni che si costruiscono e l'attività economica che viene svolta, anche se troppo spesso è controllata da soggetti che hanno orizzonti multinazionali, sovranazionali, una logica finanziaria. E a livello locale è più evidente, più facile ricostruire un legame tra la soggettività sociale e le decisioni politiche.